Italia in controluce. Buona mattina, oggi è il 17 febbraio ed è la prima edizione di Italia in controluce, il quotidiano di Radio 24 con taglio The Magazine ed inchiesta in onda in due edizioni, 6.30, 13.30. Vi parla Daniele Biacchessi. L'ospite di questa puntata di Italia in controluce è David Riondino, cantautore, verseggiatore, uomo di televisione, di teatro, grande affabulatore e jazzista della parola. Lo ha incontrato per Italia in controluce Daniela Binello. Se le dico che lei è un verseggiatore, cosa mi risponde? La categoria poeta è più fastidiosa, no? Senza, i poeti sono gente che dovrebbe saper dire delle cose al mondo. Io ho una certa attitudine a verseggiare che nasce col corino dei piccoli, che ne so io, con la scuola elementare, con le strofette. Mi piacciono anche i verseggiatori, quelli che anche loro sono più o meno poeti, quelli della tradizione popolare toscana, che ho avuto il piacere di sentire, sono anche in Alto Lazio, verso Borbona, verso le zone tra il Lazio e l'Abruzzo. Ci sono a Tuscania, ci sono nell'Alto Lazio, verso la Toscana, ma anche nel Lazio verso Rieti, insomma. Questi mettono il mondo in versi, come si suol dire, cioè fanno dei contrasti versificando. Io questo ho sempre trovato molto bello. Questo è anche un po' quello che succede col suo blog sul sito web di Il Fatto Quotidiano. Lei verseggia il fatto del giorno? Un po' sì, mi sono cominciato a divertire con questo blog che anche mi dà un certo ritmo. Però era capitato di raccontare l'attualità usando delle forme chiuse di metrica, che sono le decimi in questo caso, 10 ottonari, come due quartine unite da un ponte, che è una tecnica che usano con profitto i cubani e gli sudamericani, gli spagnoli in realtà, che usavano anche nel 500 in Spagna e che con la conquista delle Americhe emigra là, è molto vitale laggiù questa tecnica improvvisativa, mentre da noi i poeti estemporanei sono pochi, saranno una trentina in Toscana, una ventina in Lazio. Questa formula qua si presta a raccontare le storie, e sul blog del Fatto, è vero, ho fatto un poemetto che settimana per settimana raccontava i fatti sotto forma di una metafora, di una specie di racconto, che tutti accompagnavano Berlusconi con un'invisibile vanga, perché in realtà tutti aspettano che finisca, i suoi amici, i suoi nemici, i suoi parenti, tutti quanti, e senza dirglielo hanno una vanga in mano, cioè qualsiasi cosa facciano aspettano, no, l'esito esiziale della faccenda. Se l'è presa anche con la mamma dell'onorevole Scilipoti. La truce figura è stata evocata a un certo punto, la mamma e Scilipoti, nei giornali. Io mi diverto a riprendere le cose che dicono sui giornali, è come questa figura arcana, vagamente d'annunziana, no? Perché mi sembra bicefola d'annunziano, qualcosa del genere. Cioè, perché leggendo D'Annunzio, che stavo leggendo recentemente, e che è un grandissimo poeta, molto più interessante di quello che non si pensi, trovi un sacco di espressioni meravigliose, arcaicizzanti, no? Grottesche, che sarà per assonanza di parentela abruzzese con Scilipoti, che di quelle parti fanno immaginare la madre di Scilipoti radicata dentro un immaginario arcaicizzante come quello di D'Annunzio. Ecco, questi sono i corticircuiti divertenti che uno può fare o permettersi se scrive in strofette. Allora, lei ha anche alle spalle ben 10 anni da bibliotecario, avrà letto molti libri, infatti è un intellettuale. Però lei ha detto una volta a qualcuno, a qualche collega giornalista, che l'intellettuale deve servire anche a qualcosa, cioè mette la sua esperienza al servizio degli altri. Ma a cosa serve l'intellettuale? Secondo me a rendere più veloce, più agile, più dritto, diciamo, che è come una strada, insomma, invece che fare una strada tortuosa, che può essere anche bella e utile per arrivare dove devi arrivare, cioè una strada più sensata e più ragionevole che ti fa risparmiare tempo. Cioè, un buon maestro non è che ribadisce all'infinito chi è un maestro, no? Ti spiega più rapidamente di un altro come fare il giornalista, come fare il medico, come risolvere un'equazione, come, no, arrivare al nodo di un ragionamento politico, teologico o quel che sia. Questo è un intellettuale, uno che ti aiuta a andare più spedito. Qualche volta gli intellettuali però fanno gli antipatici. Sono molto antipatici, infatti proprio siccome hanno fatto molto spesso gli antipatici, cioè più che altro hanno ribadito che loro erano, no, va bene, una casta da privilegiare, da difendere, e siccome non ne avevano le qualità, molto spesso oppure esageravano in questa distanza, sono stati giustamente bastonati. Sono antipaticissimi i generi intellettuali. Io infatti un tempo non avrei mai pensato di fare, che ti devo dire, carriere tipo il professore universitario, preside, lo vescovo, che ti devo dire, mi sembrava delle cose talmente antipatiche, no? Che non avrei mai immaginato. Adesso rimpiango un po', perché vedo invece che poi, insomma, ci sono tanti professori universitari, anche vescovi, piuttosto simpatici, moderni, vescovi brasiliani, per intendere, sono anche plurifidanzati. Però, al di là di queste sciocchezze che ti dico, c'è il fatto che è cambiata molto la figura di quello che ha a che fare con le lettere, no? In bene e in male. Va bene, vedremo un Riondino vescovo, sì, magari a teatro, prima, sì, o poi. Perché il rapporto fra storia e immaginazione è micidiale? Io non ho mai capito se la storia funziona perché c'è dentro un mito, un racconto, un epos, anzi penso che sia così, oppure se l'epos nasce raccontando la storia. L'epoca che noi viviamo mi sembra, per esempio, un'epoca molto raccontabile come conflitto di religioni, non tanto come laicizzazione della società, ma come arrivo di una nuova religione, che è la religione del denaro, che ha i suoi vescovi, il suo clero, i suoi funzionari. Berlusconi, per dirne uno, più che sembrare un politico normale, sembra uno sciamano di una religione arcaica, la religione del denaro. Nessuno ha votato Berlusconi perché era un politico, ha votato perché aveva questo carisma del denaro, questa magia della ricchezza, questa capacità di essere fuori da qualsiasi politica, ma dentro la realtà che è economia, denaro. Infatti, come sciamano del denaro, di questa religione, ha dei segni religiosi. Tu guarda, nelle antiche religioni i leader invecchiano, la ruga è segno di prestigio in Khomeini, in Wojtyla, nei leader. Invece nelle nuove religioni i leader non invecchiano, la maschera è quella di eterna giovinezza. Il capello addirittura dipinto è una maschera, diciamo, in cui si nasconde un'essenza che non corrisponde più a quello che è fuori, quindi è una giovinezza infinita. Il denaro è mammona. La prima edizione di Italia in Controluce, torniamo oggi alle 13.30, naturalmente su Radio 24.